Europa 24. Un saluto cari ascoltatori da Gigi Donelli. Dunque, oggi, come dire, siamo un po' in ritardo per l'ora media del pranzo. Abbiamo in realtà due temi che riguardano la tavola. Da una parte un accordo sulle vongole, quindi che naturalmente è una parte dell'accordo generale sulla pesca. Dall'altra invece un non accordo, anzi una questione che si fa sempre più calda sul fronte del riso. Allora, risicoltori contro l'Europa per l'invasione del riso asiatico. Sentiamo Laura Bettini. Auspichiamo una maggiore attenzione da parte dell'Unione Europea, in particolar modo dalla Commissione, per quanto riguarda le importazioni a dazio zero di riso, in particolar modo proveniente dalla Cambogia. Concessioni che erano nate con l'intento di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali. In realtà, col passare del tempo, abbiamo visto che il vero arricchimento è stato per le multinazionali che in questi paesi hanno costruito degli impianti di trasformazione. Un dato allarmante è che da 2 anni in Italia la superficie investita a riso indica, che è lo stesso riso che viene prodotto in questi paesi PMA, in Italia questa superficie si è addirittura dimezzata. Basta pensare che, fatta 100 la produzione italiana, il 30% è destinato al mercato domestico e il 70% è esportazione. Di questo 70%, più della metà è riso indica. Riso dunque un dossier che rimane aperto, mentre come vi anticipavo è stato approvato a Bruxelles in via definitiva il cosiddetto piano vongole presentato dall'Italia. I dettagli nel servizio. Alla fine gli spaghetti alle vongole made in Italy sono salvi. Ci sono voluti 2 anni di battaglia, riunioni, proposte, controproposte, missioni a Bruxelles, incarichi di studio, dossier scientifici. La Commissione europea ha dato ufficialmente via libera definitiva ai pescatori italiani. Dal 1 gennaio del 2017 le dimensioni minime delle vongole che si potranno pescare in Italia passeranno a 22 mm dai 25 attualmente previsti dal regolamento comunitario, che aveva messo fuori gioco soprattutto le aziende nostrane che operano nell'Adriatico. Qui infatti le vongole, anche quelle perfettamente mature, raggiungono una dimensione massima di 22 mm di diametro. Soddisfatto il sottosegretario per l'agricoltura e la pesca Giuseppe Castiglione, per un'Europa che non solo ascolta ma sostiene il settore. Oggi è veramente una giornata storica, un regolamento che era in vigore dal 2006. Oggi avviamo una stagione nuova di utilizzazione anche delle risorse comunitarie che saranno messe a disposizione del nostro paese. Un miliardo di euro per i prossimi anni per il settore della pesca, per fare innovazione, per mettere in sicurezza il comparto. Le esportazioni rappresentano quasi la metà della produzione nazionale, un settore, quello ittico, che impegna in Italia una flotta di circa 710 imprese e oltre 1600 addetti, una battaglia vinta anche grazie alla nuova politica delle istituzioni europee, come spiega Renata Briano, vicepresidente della Commissione europea pesca. Un principio che noi chiamiamo regionalizzazione, quindi principi generali buoni, ma poi declinare questo alla regionalizzazione che si occupa delle caratteristiche di ogni mare, di ogni tipo di pesca, anche di ogni tradizione del luogo. Questo delle vongole è stato fatto bene, è stato accettato. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. È tutto per oggi, adesso con Carlo Genta tutti convocati. A domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.